Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Stamattina io vorrei informarmi e non saprei dove mettere i soldini che hanno da parte i miei bambini. Come faccio? Ah, c'è Radio 24, un consiglio mi darà senza gran difficoltà. Sono bravi, sono belli, anche un poco pazzerelli. Loro sono i nostri amori, due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Seconda passata. Allora, buongiorno a tutti. Eccoci ritrovati a Due di Denari. Anche se ci ascolta in remoto, io so già che il nostro Mauro Meazza starà inginocchiandosi al cospetto del brano di Giorgio Gaber che questa mattina abbiamo dovuto scomodare per introdurre la notizia del giorno. Sono tante le notizie del giorno, ma questa ci sembrava particolarmente apprezzabile. È tutto il meraviglioso mondo del redditometro. Vi ricorderete in passato quante volte abbiamo parlato di questa brutta, per molti, abitudini che ha lo Stato di fare un confronto fra i redditi che i contribuenti dichiarano e magari le abitudini di spesa. E allora, perché si utilizza questo strumento? Naturalmente per fare una verifica anche del livello di evasione fiscale, che nel nostro paese, come sapete, è un problemino particolarmente importante. È chiaro che se, come dire, si appura che un gioielliere denuncia 5.000 euro di redditi l'anno e poi si scopre che si è comprato la Ferrari, ed è evidente che c'è qualcosa che non va. Allora, perché lo shampoo di Giorgio Gaber? Perché prima era toccato ai ristoratori con il tovagliometro, nella sostanza si poteva verificare che un ristoratore guadagnasse pochissimo, denunciasse pochissimo in termini di guadagni, ma poi si scopriva che spendeva tantissimo in lavanderie dove portava una marea di tovaglie sporche, e quindi è chiaro che anche lì i conti non tornavano. Poi gli accertamenti avevano riguardato in passato anche i baristi con il caffettometro. Adesso pare toccherebbe ai parrucchieri, che dovranno confrontarsi con lo shampoometro. Già poveretti, hanno dovuto ridurre tantissimo le visite dei clienti, sanificare tutti i locali. In questo periodo stanno spendendo veramente molto per mettere a norma tutte le attività. Adesso devono anche confrontarsi con il fisco, che mette in campo questo strumento. Insomma, cosa dice l'amministrazione fiscale? Nella fattispecie, che cosa ha detto la Commissione Tributaria Regionale del Lazio? Con una sentenza recente, è della fine di settembre di quest'anno, l'abbiamo scoperta proprio in queste ultime ore, che se il consumo di shampoo è alto ma i redditi dichiarati sono bassi, cari barbieri e parrucchieri, c'è qualcosa che non torna, per cui regolarizziamo un po' le nostre abitudini nei confronti del fisco. E allora, tutto questo naturalmente non sarà il tema che affronteremo oggi, perché giovedì c'è Investire Informati, faremo ancora una volta un punto della situazione per quello che riguarda l'andamento dei mercati finanziari. Ci sono tante cose interessanti da raccontare. I mercati sono inevitabilmente preoccupati per l'entità dei contagi, che a livello mondiale stanno salendo sempre di più, una situazione che torna ad essere piuttosto critica per il nostro paese, ed è chiaramente preoccupante la situazione sia per l'impatto sanitario, per le ricadute che ci sono sulle strutture ospedaliere. C'è un impatto sociale importantissimo. Le scuole, come sapete, sono ad un punto di nuovo di possibile chiusura, appunto, e quindi c'è molta preoccupazione anche per questo, ma soprattutto le ricadute economiche sono enormi. Ne risentiamo anche a livello di mercati finanziari, perché i consumi si riducono e di conseguenza anche tutto il livello produttivo, appunto, risente di questa situazione fortemente preoccupante, come vi dicevo. Oggi faremo un punto della situazione con Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Peraltro ci sono anche tante altre notizie da commentare. Continuiamo naturalmente naturalmente anche a monitorare il mese dell'educazione finanziaria. Vi segnalerò fra un po' alcune iniziative, alcuni eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, che varrà la pena seguire anche per avere come dire, l'idea su come si sta cercando di affrontare anche come soluzione di investimento e come approccio al mondo finanziario questo enorme problema che si sta manifestando in questo periodo. Però c'è un'altra notizia che ci ha molto incuriosito: il tasso di risparmio sta balzando in tutto il mondo. Io lo so che molti di voi non ci crederanno e molti di voi come sempre cominceranno a contestare, ma non riusciamo ad arrivare alla fine del mese, figuratevi se riusciamo a risparmiare. In realtà non è così, è che si consuma meno, per cui molte persone, e questo non capita solo in Italia ma sta succedendo anche nelle principali economie europee, stanno cominciando a rifare le formichine, mettono da parte, mettono molto sui conti correnti dove gli stock di liquidità stanno crescendo a vista d'occhio, e questo ci dà la sensazione effettivamente su quale sia la mole della preoccupazione che tutti in Europa hanno, ma è anche in realtà un fenomeno statunitense, perché insomma a livello mondiale si sta mettendo del fieno in cascina proprio per arginare in qualche maniera adesso la preoccupazione che si ha per i mesi a venire. Se lavoreremo meno, se guadagneremo meno, come faremo ad andare avanti? E un po' anche probabilmente consapevoli in molti hanno un po' incassato anche la lezione che è stata imparata negli scorsi mesi della primavera, appunto scorsa, quando con il Covid vi abbiamo raccontato tante volte quante famiglie si sono trovate in difficoltà e hanno dovuto chiaramente attingere a tutte le numerose risorse che lo Stato ha messo in campo, perché effettivamente portare avanti il ménage familiare dal punto di vista economico è stato complesso per tutti. Ecco, forse proprio memory di questa lezione recentissima, in molti adesso dicono: sai che c'è, cerco di consumare meno, di spendere meno, ma mi tengo qualcosa sul conto corrente nel caso in cui i prossimi mesi dovessero essere particolarmente negativi ed impegnativi. Tutto questo preambolo, naturalmente, come sempre, per ricordarvi anche che potete intervenire in diretta nel nostro programma per commentare i temi finanziari del momento. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di farlo, di intervenire per l'appunto in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666. Siete degli affezionati particolarmente ai WhatsApp audio, come li chiama Simone Spezia. Adesso direi di dare il via al giornale radio del risparmio. Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Allora, l'epidemia di Covid sta spingendo la richiesta di banconote in Europa, sebbene si riducano i pagamenti in contanti e continuino, ne abbiamo parlato tante volte, a salire anche quelli digitali, e peraltro è una spinta ulteriore quella che arriva anche, come sapete, dal governo italiano. Stiamo partendo con il famoso piano di cashback, si parte con la famosa fase sperimentale in dicembre. Allora, il fenomeno dell'aumento di richiesta di banconote in euro è stato spiegato e commentato dal componente del board della Banca Centrale Europea, l'italiano Fabio Panetta, che dice: il fenomeno ha spinto le banche centrali dell'eurosistema a pianificare con attenzione tutte le attività legate alla catena di produzione e distribuzione, in modo da assicurare la continua disponibilità di banconote anche in situazioni di crisi. La disponibilità di contanti in ogni paese dell'area euro è monitorata, è pronta ad eventuali scenari avversi. Ad ogni modo, i pagamenti digitali hanno conosciuto negli ultimi anni un forte incremento in termini di volume. Le transazioni in contanti sono scese dal 79% del 2016 al 73% quest'anno, e in termini di valore dal 54% al 48%, mentre i pagamenti con carte, non con carta, ma con carte, sono saliti dal 19% al 24% in volume e dal 39% al 41% in valore. Altre notizie della giornata. Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, alcune iniziative che vogliamo segnalarvi oggi e che si svolgeranno però nei prossimi giorni, e quindi prendete carta e penna e segnatele in agenda. Allora, c'è una società italiana che si occupa di formazione per i consulenti finanziari, di formazione finanziaria in senso generale, professione finanza, in collaborazione con l'International Institute for Culture and Economic Education, è un istituto internazionale per l'educazione e la cultura economica. Inaugurano queste due istituzioni insieme la Family Economy Week, la settimana dell'economia della famiglia nella sostanza. Un evento digitale che si svolge in 3 giornate, 27, 28, 29 ottobre, durante le quali economia, società, finanza, cultura e imprese si raccontano e si confrontano su 3 grandi macro temi che sono stati scelti: economia e finanza, la società del futuro, imprese e innovazione. Complessivamente in queste 3 giornate sono previsti 9 appuntamenti, tutti rigorosamente a distanza, in streaming, ce ne sono 3 al giorno, e sono realizzati appunto questi eventi con il contributo con decine di figure di rilievo del panorama economico, finanziario, culturale e sociale del nostro paese. E in questa prima edizione della Family Economy Week, questa prima edizione è stata intitolata nel suo complesso Rinascimento Italiano. Ci saranno tra gli altri anche Elsa Fornero, Giovanni Tria, Mario Nava, che è l'ex presidente della Consob. Nella sostanza l'obiettivo è fare educazione finanziaria. In questo mese questa iniziativa è accreditata al mese dell'educazione finanziaria, raccontando questo delicato momento storico da più punti di vista ad un pubblico comune di non specialisti. Volevo poi anche segnalarvi quello che sta mettendo in campo una grande compagnia di assicurazioni, il Gruppo Generali, che pure aderisce al mese dell'educazione finanziaria con un ciclo di 5 incontri rivolti a giovani, studenti, famiglie e nonne. Gli incontri, anche in questo caso, guarda un po', avvengono attraverso piattaforme digitali e consentiranno il confronto con gli esperti presenti su varie tematiche. Vi do appunto le date: il 26 ottobre il tema che verrà affrontato alle ore 16, l'impatto del Covid sul settore assicurativo; il giorno 27 ottobre alle 18, Investment Day, speciale bonus e agevolazioni, quindi anche il fisco troverà spazio in questi approfondimenti; il 28 ottobre alle 16, trend demografici e risparmio previdenziale, prepariamoci oggi per il nostro domani; il 29 ottobre alle 16, come funziona una società di gestione del risparmio e il relativo processo di investimento; l'ultimo evento è il 30 ottobre alle 18, Previdenza Day, previdenti si diventa. Naturalmente potete andare a cercare tutte le informazioni sul sito del Gruppo Generali. E poi questo è imperdibile, come direbbe Mauro, un numero da collezione. Oggi è in edicola con il Sole 24 Ore il 110% e tutti i bonus per la casa, una guida per trovare la soluzione su misura per risparmiare nei lavori edilizi. È un manuale, l'ennesimo che su questo argomento pubblica il Sole 24 Ore. Sono andati tutti benissimo, anche perché, come sapete, a furia di aspettare tutti i provvedimenti attuativi, in realtà questo l'impianto del meccanismo del 110% si è messo in moto abbastanza lentamente, ma adesso il quadro è completo, per cui nello speciale di oggi ci sono assolutamente tutte le informazioni utili per decidere questi lavori, capire quali sono quelli che possono essere fatti utilizzando questo incredibile ed enorme incentivo fiscale, per cui è il momento delle scelte, dice il Sole. Questo è un prodotto, un fascicolo appunto che fa proprio un punto della situazione molto dettagliato su tutti i requisiti necessari per arrivare a poter usufruire del cosiddetto super bonus, e quindi ricordo appunto che è in edicola oggi con il Sole ad un prezzo di 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano. Concludo ricordando che martedì 27 ottobre c'è anche il convegno speciale Telefisco, il super bonus del 10%, un appuntamento in streaming dalle 9 alle 13 del mattino con tutti gli esperti del Sole 24 Ore che conoscono molto dettagliatamente la materia. Anche ci saranno anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate su tutti i quesiti che si sono accumulati in questo periodo su questo argomento. Potete andare sul sito del Sole 24 Ore a questo indirizzo: www.ilsole24ore.com/superbonus. Dette tutte le notizie della giornata, direi che possiamo partire con il tema di oggi, visto che è giovedì. Come sapete, c'è una rubrica ormai ben consolidata. Investire informati. A Allora, esplodono i contagi a livello mondiale, ritornano le misure di contenimento. Fra due settimane ci sono le elezioni americane, il nuovo presidente statunitense dovrà affrontare una crisi economica pesantissima. In tutto questo, per fortuna che qualcuno pare ripartire, è la Cina. È una settimana importante perché sono state emesse anche le obbligazioni europee che finanzieranno il cosiddetto programma Sure. Peraltro c'è stato veramente un boom di domanda e le scadenze su questi titoli hanno ottenuto dei rendimenti molto bassi, addirittura negativi, quindi sarà interessante fare anche un parallelo con i titoli di Stato che circolano sul mercato in questo momento. Non sono appunto questi programmi, queste obbligazioni che finanziano il Sure, titoli per i risparmiatori, ma è interessante appunto fare comunque un raffronto fra questi strumenti e il resto del mercato obbligazionario. Due giorni fa il Ministero dell'Economia ha annunciato per novembre l'emissione del nuovo BTP futura, chi più ne ha più ne metta. Veramente oggi di temi che bollono nella pentola di investire informati ce ne sono tanti e quindi potrò certamente sbizzarrirmi con Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Ben trovato, buongiorno e grazie. E buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Peraltro volevo anche completare il ragionamento su alcune indagini che stanno facendo diversi giornali in questi giorni, prendendo a spunto anche l'ultimo bollettino dell'ABI, l'Associazione appunto delle Banche Italiane, che ci ha raccontato proprio pochi giorni fa quanto sia balzato il tasso di risparmio degli italiani per quello che riguarda l'ABI naturalmente, ma in realtà questa è un'indagine che accomuna molti risparmiatori in tutta Europa. Nella sostanza appunto sul conto degli italiani, ma direi degli europei, torna ad esplodere la liquidità. Per qualcuno potrebbe essere sicuramente un tema positivo, nel senso che qualcuno magari dice beati loro che hanno tutto questo denaro da mettere sul conto corrente. In realtà è un tema che si presta a moltissime considerazioni. Io però vorrei partire dal tema dei mercati, Pozzi, perché ogni ragionamento in questo momento non può prescindere proprio dalla pandemia. Ogni angolo del mondo finanziario è totalmente condizionato dall'impatto di questa situazione. Anche oggi i mercati, così come è successo ieri, tornano ad essere deboli. C'è stato anche un'altra, è stata pubblicata anche un'altra pagina di tutti i report recenti del Fondo Monetario Internazionale che ci racconta come in Europa, sono le ultime, i cosiddetti outlook, le ultime indagini, in Europa i rischi rimangono significativi e sono in aumento appunto con la seconda ondata di infezioni che si sta intensificando. Chiedo a lei da dove vuole partire, se ci vuole intanto commentare un po' il trend di mercato di questi ultimi giorni. Siamo nel pieno dell'ultimo trimestre dell'anno, chissà come archiveremo questo 2020. Quali sono i principali elementi che nota? Allora, diciamo che abbiamo vissuto alcuni mesi positivi dal punto di vista anche psicologico, oltre che di crescita economica, di vendite e così via. I mesi del terzo trimestre, più o meno da marzo, poi giugno, hanno visto una ripresa dell'attività economica, una ripresa anche in parte degli utili aziendali, grazie al fatto che erano venute meno le misure di contenimento della mobilità. E quindi questo ha aiutato tantissimo l'economia e i mercati finanziari, che erano stati anche sostenuti tantissimo dalle innumerevoli manovre di stimolo dei governi, manovre di stimolo fiscale, di spesa, di aiuto diretto alle aziende e ai lavoratori, e poi manovre di stimolo monetario, cioè da parte delle banche centrali che hanno messo nel sistema tanta liquidità, hanno continuato in alcuni casi a tagliare i tassi, a ridurli, dove questo era possibile ovviamente, e queste buone notizie di fatto sono entrate nei prezzi dei mercati anche azionari, oltre che delle obbligazioni societarie ed emergenti. Ora abbiamo invece una fase di ritorno purtroppo coi piedi per terra, in quanto la recrudescenza del Covid ha delle ripercussioni molto importanti, che però sono diverse da paese a paese e da area ad area. In Europa, giustamente, a mio modo di vedere, viene data tantissima importanza alla salute e alla sicurezza dei cittadini e quindi vengono prese nuove manovre di contenimento della mobilità, con tutte le ripercussioni economiche del caso. In altre aree geografiche, in alcuni paesi dell'America Latina o anche del Nord America, non viene, evidentemente c'è una sensibilità diversa, ecco, le scelte per adesso sono state differenti e quindi paradossalmente l'attività economica procedi a un ritmo più spedito. Questo poi si vede anche nei dati degli utili aziendali che stanno iniziando a emergere in questi giorni per le trimestrali, e però con molti più casi di contagio e di morti per ogni 100.000 abitanti. Questo è un dato di fatto. Quindi diciamo che si considera, e il mercato finanziario guarda anche questo, come anche a livello politico la pandemia viene affrontata e reagisce di conseguenza. Stavo leggendo, me lo sta segnalando la redazione, Manuel Pozzi, c'è un commento di Tommaso Corcos, che è il presidente di Assogestioni, che sta intervenendo ad un evento, l'ennesimo webinar, nel ciclo di quelli organizzati appunto da Assogestioni, Revolution, il fattore R a sostegno del mondo post-Covid. Sta proprio commentando il tema che stavo indicando prima, cioè sul tasso di risparmio degli italiani, che è passato dall'11% al 16% nel secondo trimestre, e stiamo viaggiando intorno al 20% del terzo trimestre. Questo che cosa vuol dire? Che rispetto alle entrate di una famiglia, questa è mediamente la percentuale che si riesce ad accantonare o si vuole accantonare, perché noi dobbiamo anche immaginare che magari per qualche famiglia questo sia uno sforzo importante, non è che tutti hanno tutta questa grande disponibilità da mettere da parte. Il punto è che si rinuncia a consumare per mettere da parte, per, come dicevo prima, mettere fieno in cascina per fronteggiare eventualmente i prossimi mesi che si preannunciano difficili. Questi risparmi, dice Corco, se sono figli dell'incertezza economica, gli italiani risparmiano di più. Lei ha un quadro, stando a Londra, più complessivo sull'Europa. Che cosa ci dice questo andamento? Questo risparmio è figlio della preoccupazione, esclusivamente figlio della preoccupazione, Pozzi? No, non è solo figlio della preoccupazione, anche se questo ovviamente porta a decisioni che vogliono o vorrebbero essere sagge, che sono quelle di mantenere, come già diceva, un po' di fieno in cascina per i periodi di magra che potrebbero presentarsi anche, diciamo, nei trimestri a venire. Però deriva anche dal fatto che laddove ci sono state comunque delle misure di sostegno per i redditi, pensiamo alla cassa integrazione straordinaria da noi in tanti altri paesi europei, piuttosto che gli assegni che sono arrivati nelle tasche degli americani durante i mesi più difficili, diciamo, di quest'anno, questi soldi non sono stati spesi, ma semplicemente perché quando non si poteva andare in giro non si mangiava fuori, non si mangiava fuori anche durante la pausa pranzo, si muoveva molto meno in macchine, quindi si spendeva meno in altre forme di intrattenimento, che fossero teatri, cinema e così via, e quindi forzatamente siamo stati obbligati a spendere in quei modi. Abbiamo speso magari in altri modi, anche con acquisti online, ma sicuramente tante voci di spesa sono venute a mancare, per cui si è creato un risparmio non volontario, non dettato dalla saggezza, ma dal fatto che non si poteva proprio fare altrimenti. Anche in America il livello di quello che chiamano gli excess savings, cioè i risparmi in eccesso rispetto a quello che sarebbe, diciamo, necessario, sono aumentati enormemente nei mesi che vanno da aprile ad agosto, cioè fino a che ci sono stati questi assegni che sono arrivati nelle tasche degli americani. Poi, nel momento in cui le forme di previdenza straordinaria verranno a diminuire o a mancare del tutto, e si sta discutendo proprio in queste settimane in molti paesi, compreso il nostro, su come e se rifinanziare ulteriormente queste forme di aiuto per l'anno prossimo, se dovessero venire a mancare, allora questi risparmi verranno in parte prosciugati. Ed è il grande dibattito che c'è anche per l'America in questo periodo. Verranno prosciugati, allora abbiamo detto, quindi si è consumato meno la scorsa estate perché ci siamo potuti godere un po' meno la vita, adesso si consuma un po' meno perché siamo preoccupati dei mesi a venire, molta liquidità sui conti correnti in Italia come nel resto d'Europa, ma certamente per qualcuno, noi speriamo che siano in molti, molta liquidità pronta anche ad essere smontata ed investita. Nel caso in cui qualcuno voglia farlo da ora in avanti, dove va? Cosa fa? Che mercati scegli? Che aree? Peraltro è un mondo, quello che ci circonda adesso, che sta rallentando complessivamente, anzi in molte aree del mondo il PIL ha una caduta libera, Altre aree del mondo invece hanno manifestato una sorpresa. Il PIL del terzo trimestre della Cina è cresciuto del 4,9% e quindi ci ragioniamo da un po'. Sarà la Cina a salvarci e ad essere, come dire, la capofila di una ripresa che prossimamente ci sarà, prima o poi, anche se sarà molto dura. Ne parleremo tra un attimo con Emmanuel Pozzi. Intanto 800 24 00 24, se volete raccontarci anche la vostra esperienza di persone che hanno consumato meno per risparmiare un po' di più. Cosa intendete fare adesso? Tenete ancora tutto il denaro sul vostro conto corrente o immaginate di smobilizzarlo un pochino per ricominciare ad investire? Siamo pronti a raccogliere la vostra testimonianza. Intanto io vi racconto la giornata di borsa di oggi. Viva la fatturazione elettronica! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Due di denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno ragazzi di Due di Denari. Ho comprato tempo fa azioni dalla S Roma a 0,54 euro. Vorrei conoscere che fine faranno gli azionisti che, dopo il delisting di fine mese, continuassero a detenere le azioni. Boh, chissà che fine faremo. Grazie Roberto, buon lavoro. Allora, diciamo che in genere certe scelte di investimento hanno più un valore sentimentale che finanziario. Chiaramente esonero, anche in questo caso utilizzando un termine calcistico, Manuel Pozzi dal commentare la natura dell'operazione. Sono arrivati questi soci texani di Friedkin e hanno lanciato l'offerta pubblica di acquisto appunto sui titoli della Roma. Noi è un'operazione che non vogliamo né possiamo commentare. Fra un attimo chiederò però a Manuel Pozzi di spiegarci effettivamente che cos'è un delisting. Quando una società viene estromessa dalla borsa può avvenire per tante ragioni, in questo caso perché c'è un'offerta pubblica d'acquisto finalizzata anche a togliere dalla borsa il gruppo, e che cosa succede per chi non aderisce. Fra un attimo però, perché prima ho un altro tema un po' più grande della storia della Roma da affrontare con Manuel Pozzi, cioè le prospettive della Cina, perché per quanto sia stata l'area che ha determinato tutto quello che viviamo in questo momento, perché da lì tutto è partito nei mesi passati, adesso è la prima grande economia a provare ad uscire dalla crisi. I numeri ce lo raccontano. Che cosa ci indica questo più 4,9% di crescita del PIL del terzo trimestre? Dovremo rimodulare tutti i nostri portafogli di investimento, sbilanciandoli un po' di più verso quest'area. Pozzi, ha senso un comportamento del genere? Insomma, come dobbiamo commentare a favore dei nostri ascoltatori questo argomento? Ma allora, innanzitutto, la Cina ovviamente ha una rilevanza sullo scacchiere internazionale incredibile, e questo sta avvenendo, diciamo, anche se molto più lentamente, anche sui mercati finanziari. Inizia ad affacciarsi sul mercato del debito, che diventa un mercato un po' più spesso e diversificato, sul mercato delle obbligazioni e sui mercati azionari, con i vari listini in cui sono quotate le aziende cinesi. È ovvio che un mercato diventa più importante perché offre molte più aziende rispetto a solo 5-10 anni fa, tra cui scegliere, perché molte di queste aziende sono anche leader in alcune nicchie di mercato, e quindi sicuramente è un mercato da guardare, da non scartare come magari si poteva fare fino a un po' di anni addietro. Rimane però un'area che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle dei mercati occidentali o della stessa Giappone, ecco, perché c'è un dirigismo pubblico molto più invadente, ecco. Diciamo che l'autorità statale... È molto elegante lei nel commentare, ecco, il dirigismo invadente, un pochino invadente... un commento diciamo molto politicamente corretto. Cerco di esserlo, perché, ma anche perché non ci sono solo aspetti negativi. Da parte, in questo caso, per il fatto di avere interferenze molto forti da parte delle autorità, perché vuol dire anche un controllo dei mercati capitali che è più netto, ecco, quantomeno uno lo sa o quantomeno deve ricordarsi che esiste, e questo influenza poi tantissimo i prezzi di borsa. la dinamica della borsa cinese è stata guidata tantissimo dalle indicazioni più velate o molto più dirette dell'autorità governativa. Quando voleva far affluire i capitali, lo favoriva, il mercato era invaso da nuovi investimenti e quindi i prezzi schizzavano alle stelle, e viceversa quando invece voleva frenarlo per evitare anche bolle eccessive. Quindi questo è un fenomeno da tenere ben presente come investitori. È ovvio che man mano che la borsa cresce e che anche i mercati di capitali diventano più liberi in Cina, vuol dire che questo fenomeno diventa un pochino meno importante. Ma ricordiamoci quello che era successo nel 2014-2015, la borsa di Shanghai schizzò alle stelle quasi triplicando, più che raddoppiò, e poi ebbe un crollo fortissimo, e tutto questo nell'arco di pochi mesi. Questo non era dovuto agli utili aziendali, era dovuto ai flussi che erano in parte convogliati o incentivati anche. Ecco. Stessa cosa probabilmente in parte la vediamo anche quest'anno. È ovvio che la Cina, che per prima ha avuto il problema del Covid, per prima l'ha affrontato dopo qualche tergiversare fino a gennaio, poi l'ha affrontato in maniera radicale come probabilmente nessun paese democratico avrebbe potuto fare, però ha avuto anche una ripresa maggiore. Più recentemente hanno potuto anche beneficiare per esempio del turismo interno, che è tornato a muoversi tantissimo, e questo si è visto poi nei conti anche pubblici e nei conti del PIL, della crescita economica in generale del paese. Ecco. Però teniamo presente, e qui farei quasi un riferimento a quello delle società calcistiche, sono società che tipicamente, almeno parlando di quelle quotate in Italia a partire da fine anni 90 con la Lazio, poi la Roma e la Juve, sono titoli estremamente volatili, ecco. E quindi anche la borsa cinese, per quanto stia diventando, ed è già una realtà importantissima, però ha degli elementi di volatilità che sono diversi da quelle delle borse europee, da quelle delle borse americane, ecco. Perché c'è anche questo elemento di gestione o tentativo di gestione un po' dei flussi che poi vanno in borsa oppure invece che ne escono. Assolutamente. Quindi, allora, adesso spieghiamo. Sì, non ho sentito la sua conclusione, Pozzi? Sì, no, concludevo dicendo, quindi è una borsa sicuramente da guardare, ma non perché adesso l'economia cinese sta riprendendo prima delle altre, perché è una borsa fatta da tantissime aziende, molte sono valide, però ricordiamoci che è una borsa dove la liquidità viene gestita in maniera un po' diversa rispetto al resto del mondo. Chiarissimo. Allora, qua avremo una marea di argomenti da trattare. Adesso vediamo nell'ultima parte della trasmissione se andare ai bond, alle obbligazioni che finanziano il programma Sure, o andare magari a fare un giro negli Stati Uniti, perché si sta discutendo di questo piano di aiuti all'economia con tanti stop and go, e adesso vediamo, ne sceglieremo uno perché tutti non ce la facciamo ad affrontarli. Prima però, sì, vi faccio il domandone anche oggi. Domandone facilissimo, anche perché l'informazione ve l'abbiamo data veramente con una chiarezza cristallina poco fa. E allora, il PIL del terzo trimestre cinese quanto è cresciuto? 800240024, naturalmente come sempre l'opportunità che vi diamo oggi è quella di ricevere il libro Investire è facile anche nei momenti difficili, scritto da Mauro Meazza e Deborah Rosciani. Traffico, a tra poco. Che figura! Non notarla di lei nuova acconciatura. Di sicuro pegno pagar dovrai, ed assai drastico. Che altro resta da dir se non traffico? Due di denari. Risparmia di più anche perché ristorante non ci si va, in vacanza non ci siamo andati, aperitivo non si può fare, dove si spendono i soldi se non si può fare niente? Saluti Massimiliano da Lucca. 40 anni fa, per misurare il reddito dei parrucchieri maschili, andavano a guardare il consumo dei giornaletti zozzi. Sono Sergio, cara Debora. Volevo sapere opinioni sul discorso petrolio, visto che sono titoli che una volta erano difensivi. Grazie. Tre messaggi molto interessanti da parte degli ascoltatori, soprattutto il secondo, ma questo me lo ricommento con Mauro Meazza quando torna a condurre con me Due di Denari. Quanto è cresciuto il PIL cinese nel terzo trimestre? Il domandone di oggi, se rispondete all'800240024, mandiamo al primo che risponde correttamente il nostro libro. Investire è facile anche nei momenti difficili, adesso è un momento oggettivamente molto difficile per fare delle scelte coerenti con i nostri obiettivi di investimento. Manuel Pozzi, allora il tema ce l'ha dato l'ascoltatore, prima però 30 secondi, il delisting, che cosa vuol dire? Questi americani sono arrivati, hanno lanciato l'offerta pubblica d'acquisto sul titolo della Roma con l'obiettivo proprio di delistare, controllare tutta la società, farne un club solido, dicono loro, ma l'obiettivo è toglierla dalla borsa. Se un azionista, un piccolo azionista, per affetto o per i motivi che ritiene, non consegna il titolo, che cosa succede? Ce la fa a spiegarcelo in 30 secondi? Sì, che a un certo punto, quando si conclude questa OPA obbligatoria, quindi la legge italiana prevede che in certe situazioni, quando un unico socio detiene una quota capitale altissima di queste società quotate, superiore al 90%, deve fare poi un'OPA, 95%, un'OPA obbligatoria. E se qualcuno non aderisce, a un certo punto comunque l'azionista di riferimento ha il diritto di poter finire di ritirare, diciamo, le azioni rimaste sul mercato, sostanzialmente al prezzo dell'OPA precedente, per far sì che da un lato si possa procedere con l'operazione, ma soprattutto che anche gli altri azionisti, anche quelli che erano rimasti distratti magari e non avevano aderito, non per volontà ma perché magari non si erano informati, possono comunque avere accesso a qualcuno che gli compra queste azioni e non rimangono sul gruzzolo delle azioni che non vedono più nessuna contrattazione e magari la società non può procedere con i piani di risanamento, piani straordinari che niente. Certo. Spesso questo tipo di operazioni vengono fatte quando c'è una situazione difficile per una società, magari c'è un gruppo di private equity o una cordata di soci nuovi, di investitori che vogliono intervenire, però sanno che magari ci vogliono 1, 2, 3 anni, 4 anni di investimenti e prima di vedere i risultati, e questi sono tempi che purtroppo non vanno d'accordo con l'ottica spesso troppo di breve termine di chi investe in borsa, e quindi pensano, certo, ok, nel medio termine posso estrarre un buon valore da questa società, posso farla tornare a viaggiare bene, però ci vuole tempo, bisogna fare investimenti, cambiamenti grossi, voglio farlo da solo e quindi tolgo il titolo dalla quotazione in borsa. C'è poi anche un altro scenario, ma non voglio continuare su questo argomento, lo indico solamente, bisognerà vedere appunto tutti i detentori di queste azioni se consegneranno in offerta pubblica, perché può anche verificarsi il caso che le adesioni siano totalmente insufficienti e allora o si rinuncia all'offerta pubblica oppure la compagnia che la fa, la società che la fa, deve rilanciare sul prezzo, allora magari rende un po' più appetitosa l'adesione. Chiudo qua con il calcio perché tutti convocati nel pomeriggio, non è a quest'ora del mattino. C'è il tema del petrolio, Pozzi, il tema ce l'hanno dato gli ascoltatori gli ultimi 3 minuti, magari lo possiamo anche legare un po' al tema americano, peraltro parlando dell'investimento sul settore petrolifero, qua bisogna fare tanti distinguo perché c'è un settore di investimento nelle società che magari erogano dividendi e sono interessanti per certi punti di vista, ci sono tutte le dinamiche geopolitiche che condizionano questo settore che non vanno sottovalutate, i temi della produzione, le decisioni in seno OPEC eccetera, ci sono i derivati, abbiamo visto quello che è successo ad aprile con il prezzo del petrolio, del derivato sul petrolio e il future che è andato in negativo di quasi $40, è un settore da prendere con le molle, il suo suggerimento su come approcciare a questo comparto di investimento, Manuel Pozzi, 2 minuti di tempo. Allora, le aziende petrolifere non sono delle aziende tranquille, stabili, come sentivo un po' dalla domanda dell'ascoltatore, nel senso che ci sono molte aziende che sono enormi, veramente ben strutturate, molto diversificate anche nei campi, diciamo, di produzione, di estrazione del petrolio, nell'attività magari di raffinazione per chi fa anche quello, di distribuzione. Però il loro business, la loro attività è molto legata al ciclo economico e ovviamente al prezzo del petrolio stesso. E questo vuol dire che tendono a fare male quando ci sono le crisi economiche, quando c'è la recessione, la domanda di petrolio cala e anche il prezzo, e invece molto bene negli altri casi. Sono aziende, in alcuni casi, che hanno pagato per tanti anni dividendi molto importanti. È ovvio che in una crisi come quella attuale, dove abbiamo un crollo dell'economia globale, un crollo della domanda di petrolio, un crollo del prezzo del petrolio, queste sono le aziende o tra i tipi di aziende che soffrono di più, almeno in un anno come questo. In effetti, durante tutto quest'anno, gli utili di queste aziende ovviamente sono crollati completamente per quest'anno. È attesa una ripresa molto importante l'anno prossimo. Teniamo presente che un anno fa il petrolio viaggiava intorno ai 50-55 dollari, se ricordo bene, adesso siamo più intorno ai 40 dollari, per cui siamo comunque con prezzi più bassi rispetto all'anno prima, ma se anche dovessimo assestarci attorno a questi livelli, dovremmo rivedere poi un ritorno di utili l'anno prossimo per il settore. In borsa questi titoli hanno comprensibilmente sofferto tanto, per non dire tantissimo, ma nella fase di recupero non hanno recuperato come gli altri. Per assolutamente, cui, proprio diciamo, per il quadro macroeconomico incerto. La domanda, non posso farla andare avanti, Pozzi, perché fra un po' la regia mi taglia, ma è un tema assolutamente interessante e io devo chiudere adesso con Alberto da Mantova. Il PIL cinese del terzo trimestre, come è andato, Alberto? Ah, senz'altro Alberto, meglio che finito? Il PIL 4,9%. Grazie Alberto. Lascia la regia, anzi tutti i suoi riferimenti, ci riscrive a duedidenari@radio24.it e le manderemo il nostro libro. Manuel Pozzi, buona giornata e grazie, alla prossima puntata, presto. Grazie a voi come sempre. Arrivederci, grazie a tutti e noi torniamo con Due di Denari come sempre domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.